mi prendo il piccolo compito di introdurre Mauro Scardovelli, di presentarvi a Mauro Scardovelli, il suo lavoro, la sua opera, la vita e poi tutta la storia della famiglia a partire dal 1600, quando il nonno imbarcato sulle calde, ma prima ancora a partire dalle grotte di Ventimiglia, dove gli antenati di lì. Prego, accomodatevi. Si passano 10 minuti. Sì, ma quindi e questa stasera è solo la prima parte, poi domani faremo anche la parte seconda. Vabbè. Buonasera, ben arrivati. Vi faccio una domanda: chi conosce Mauro Scardovelli già? Le sue opere che ha avuto modo di frequentare in qualche modo? Bene, la maggior parte sembra c'è una parte sì, un'altra parte no. Mauro Scardovelli, che io ho conosciuto 10 anni fa, è una persona che pensa, che riflette molto, guarda, osserva, studia e soprattutto raccoglie tutto quello che trova interessante e utile al cambiamento umano, al cambiamento e all'evoluzione, all'approfondimento della conoscenza di noi stessi dentro, per poter poi portare questa conoscenza fuori, incarnarla nelle relazioni, cioè nel modo in cui ci mettiamo in relazione con. Quindi approfondire la conoscenza di noi per trovare dentro di noi tutto quello che crea dei ponti e dei collegamenti con tutto quello che ci circonda. Con lo studio, con la disciplina, con i figli. Questo è quello che io ho imparato e ho capito seguendo Mauro in questi anni. Guardando lui e ascoltando sono nate le domande, e le domande hanno portato a cercare le risposte, come spesso succede. Tante risposte ce le siamo dati proprio noi insieme nei gruppi, guardandoci nell'associazione Aleph, che Mauro e Carolina hanno fondato più di 20 anni fa, e molte risposte Mauro ci ha invitato ad andarcele a cercare nei testi, nei libri dei grandi maestri e soprattutto a non fermare questa ricerca. Il libro che Mauro oggi ci presenta, Compassione e leggerezza, dietro le quinte della psicoterapia e della guarigione, è una riflessione della vita, del percorso che Mauro ha fatto, ma una grande apertura verso qualcosa che ancora ci aspetta e che Mauro è qua per dire. Operazione. Grazie Mauro. Grazie a voi. Non ho sentito una sola parola. 33 esami che ho fatto a psicologia e tutti quelli successivi su che cosa è gratitudine, su che sono le qualità dell'essere, su cosa significa generosità, su cosa significa profondo rispetto, visione profonda degli esseri umani, su cosa significa presenza mentale. Cioè, in un qualche modo, la psicologia a cui affidiamo poi la cura di noi quando abbiamo qualche piccolo disturbo grande, non si occupa delle cose fondamentali. Infatti qualcuno ha parlato di psicologia senza anima. Edith Stein, è stata una di queste, ha detto: la nostra psicologia ha dei problemi, lei, perché si occupa di un pezzo dell'essere umano e non dell'altro, ma questo qui è quello fondamentale. E i grandi filosofi, i grandi mistici, che poi erano anche dei grandi mistici, questi grandi filosofi erano coloro che dicevano: questo è fondamentale, questo vale così e questo vale ancora meno. La metafora del cocchio ci indica molto bene, del cocchio che adesso vi illustro. Ecco qua, c'è un cocchio, un cocchiere, dei cavalli e poi c'è questo qui, che è il padrone del carro. Il cocchio, in questa metafora che trovate anche nei testi orientali, ma anche in altre tradizioni, questo è il corpo e quindi anche i sensi. Queste sono le emozioni, questo è l'io, è il governo della personalità. E questo chi è? Il padrone del carro è il nostro vero sé, quello che in alcune tradizioni viene detto l'anima. Ora, se andiamo a osservare la psicologia occidentale, tranne alcune psicologie come la psicosintesi e altre, quello comunque che studiate all'università riguarda questo. Cioè riguarda l'io e il rapporto con le emozioni, quindi con le parti interne, con i disturbi di personalità e così via. Qualche volta si allarga il corpo e allora ci occupiamo di psicosomatica. Ma questo signore qua, questa signora qua, non se ne parla proprio. Bene, ma è qui dove i grandi filosofi come Platone hanno detto: è questo che dobbiamo guardare, perché è questo dove troviamo la tensione verso il bene e la giustizia, qui, non qui. E allora ci dobbiamo chiedere cos'è questo. Quando sentiamo parlare di anima, alcuni di noi hanno una forma di allergia, gli viene un prurito, oppure si scostano, le cose solite, queste pagliacciate. Ma l'anima chi l'ha mai vista? Tra l'altro la stessa domanda potremmo dire: chi l'ha mai visto un io? Vedo un corpo, ma l'io, boh, chi lo è? Dov'è? Non lo so. Comunque, che cos'è l'anima? Quello che diciamo noi, in Aleph, noi siamo dei maestri dell'asilo elementari che studiamo le cose, cerchiamo di renderle comprensibili. Toli, lavori molto semplici, anche se richiedono lungo studio, perché mettere chiarezza e semplicità nelle cose è un'impresa. Comunque, in base a quello che ci insegnano grandi maestri, e che oggi è confermata dalle neuroscienze, questa è la cosa interessante di oggi rispetto anche a 30-40 anni fa, che oggi anche la scienza contemporanea sta convergendo. Anima praticamente è il punto più alto dell'intelligenza umana. Poi ci sono varie altre forme di intelligenza, ma questo, quando siamo qui, siamo in quel livello di intelligenza, ad esempio quella di Einstein, che Einstein, quando è molto chiaro quando parla, quando dice che i problemi umani nascono tutti dal fatto che noi ci crediamo particelle separate in un universo, mentre noi siamo interrelati a tutto ciò che c'è. Quindi l'anima è quel tipo di intelligenza che consente di comprendere cos'è non solo il mio bene personale, ma il bene mio, ma anche il tuo, il bene di questa collettività. Il bene in questa stanza, il bene nella mia famiglia, il bene nella città, il bene delle piante, il bene dell'umanità, il bene di tutti gli esseri. Ma capite che è una bella impresa, eh? Non è mica facile, eh? E ciò di cui oggi abbiamo più bisogno. Bene, comunque, adesso su questo entro più nei dettagli. Apro un altro capitolo per chiarire questo passaggio. Se prendiamo un autore come Lawrence Kohlberg, è uno psicologo, anche un filosofo morale, che è un epigono di Piaget. Piaget ha studiato il giudizio morale nel fanciulli, lui ha studiato il giudizio morale dalle adolescenze agli adulti, con un metodo abbastanza semplice. Racconta una storia in cui c'è un dilemma, e in base a come le persone ragionano, capisce qual è il suo giudizio morale. Ad esempio, ve lo faccio in modo che abbiate qualcosa a cui attaccare il vostro immaginario. Uno dei racconti che faceva lui era questo. Dunque, c'è un uomo che ha una moglie che contrae una gravissima malattia, che è incurabile. C'è una sola persona che forse potrebbe curarla, anzi pare di sì, che è il farmacista del paese, che è un chimico bravissimo, il quale ha scoperto una sostanza in grado di curare proprio quella malattia lì. Cosa fa quest'uomo? Si precipita alla farmacia e dice: vorrei questa medicina. E il farmacista dice: certo, benissimo, lei mi deve dare, in termini di oggi sarebbero 100.000 euro, le do il falconcino. 100.000 euro, ma io non ce l'ho. Mi spiace. Se li deve procurare. Cioè, perché io ho fatto una lunga ricerca, questa ricerca mi è molto costata, e quindi... Allora quest'uomo va in giro tra tutti gli amici e raccoglie 50.000 euro. Torna al farmacista e dice: senta, qui ci sono 50.000 euro, ne vuole 100? 100. Si prende questi qua e la facciamo finita. Dice: no, mi spiace, gli ho detto ci vogliono 100.000 euro. Ma mia moglie morirà. Vabbè, io ho lavorato tanto, cosa devo fare? Le ho detto si procuri 100, ma io non ce la faccio. Questo è un problema suo, mica mio. Allora esce dalla farmacia, torna a casa, poi ci ripensa, di notte va, scassina la farmacia, entra dentro, ruba il prodotto, lo porta a casa in modo da poter guarire la moglie. Allora, in base a questo racconto si può ragionare: ha fatto bene, ha fatto male, cosa doveva fare e così via. In base a come le persone ragionano, su questo come su altri racconti, Kohlberg ha tirato fuori una serie di stadi di evoluzione morale. Secondo lui ci sono 6 livelli. Il primo livello corrisponde più o meno a questo. Io mi trovo qui, c'è una persona più potente di me, un sistema più potente di me, la mia etica mi dice: impara bene cosa loro vogliono, perché se lo impari ti premiano, se non te lo impari ti puniscono. Quindi la mia etica a questo livello è fare ciò che mi viene chiesto. Perché? Perché è il mio bene, altrimenti soffro, ne trago delle punizioni. Secondo livello è uguale a questo, solo che è invertito. Cioè, quello di la persona che prima si trovava qua si mette sopra e dice: no, no, se io faccio quello che mi dici tu, soddisfo le tue esigenze. Non io voglio questo, io voglio soddisfare i miei bisogni, io sono interessato solo ai miei. Quindi la mia etica consiste nel comportarmi in modo tale da soddisfare i miei bisogni. Punto. E l'altro dice: ma anch'io c'ho dei bisogni. Che mi importa? Allora vedete che questi due livelli sono accomunati dalla struttura di potere. Quello più forte impone la regola. Allora quando uno è piccolo subisce, appena diventa un po' più forte per i limiti che può farlo, impone. Questo è il secondo livello di etica. Non è difficile riconoscere nel secondo livello di etica una visione narcisistica della vita, cioè una centratura interna, che è la base di ogni forma di individualismo. Questa forma di individualismo oggi sta diventando dominante. Questo è il problema. Questi due livelli vengono chiamati insieme lo stadio pre-convenzionale. Cioè, prima che ci si metta d'accordo su delle norme, c'è la lotta. E la lotta produce questi risultati. Poi c'è il livello, lo stadio convenzionale, anche questo con due livelli. Il primo è, che poi è il terzo, quindi 1, 2 e 3 stadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 livelli. Il terzo livello è: io mi comporto eticamente se faccio in modo che gli altri mi giudicano bene. Cioè, il mio interesse fondamentale è capire cosa il gruppo di appartenenza considera valido. Perché? Non perché mi puniscono direttamente, ma perché ne trago il vantaggio dell'appartenenza. Grazie a questa etica io appartengo. Quindi, Se per appartenere a un gruppo mi devo mettere un anello al naso, me lo metto. Se mi devo far crescere i capelli con la cresta da gallo, lo faccio. Se per appartenere a un gruppo devo rubare in un supermercato, lo faccio. Basta. Questo è etica 3. Il quarto livello è un salto notevole, perché non riguarda più il gruppo di appartenenza, ma ci si focalizza in astratto sulle norme. Se io... Le norme sono importanti. Perché? Perché le norme sono decisive per la convivenza pacifica. Quindi, per me è importante che si obbedisca alle norme. E quindi un po' il livello della persona che diventa ossessivamente interessato a che le cose vengano proprio fatte in modo esattamente come dicono le leggi. A questo livello non ci si interessa se la legge è giusta o ingiusta. Non interessa, basta che sia una legge. Questo è il più debole dei livelli di Kohlberg. Mi sembra un baffaretto che sarebbe tutto da rivedere, ma comunque. Adesso passiamo a quelli che invece ci interessano di più. Ho fatti troppo stretti. Il quarto, il quinto livello è. Ci sono delle norme, ma io discerno. Ci sono norme che sono giuste e ingiuste, perché io nel frattempo ho fatto un'evoluzione personale, mi sono interrogato cosa c'è di giusto e di ingiusto, quali sono i principi validi e quelli invalidi. Quindi, quando io vedo una legge, una norma, mi chiedo, ma questa norma corrisponde ai miei valori o no? Metto in discussione, critico eventualmente la norma e mi do da fare eventualmente per cambiarla, promuovere un cambiamento. Questo è il livello che Kohlberg chiama democratico. Cioè, ci si interroga sui valori e si cerca di ottenere delle leggi che corrispondono a questi valori. Il sesto livello, che per noi è più interessante, è quello in cui questa ricerca interiore dei valori si è spinta così avanti che diventa centrale nella nostra vita. Il ragionamento sui valori, su cosa veramente produce il bene, come diceva Platone, è cresciuto così tanto che io non mi interesso certo solo del mio bene, ma mi interesso anche del bene altrui. E sempre più di un bene allargato e universale. Chi raggiunge quello stadio è interessato al bene comune. E quindi l'etica che lo sostiene è un'etica che si può definire un'etica universale. Bene, già Eraclito ci diceva che le persone addormentate vivono ciascuna nel suo mondo, i miei bisogni, lui i miei bisogni, ognuno il suo mondo. Le persone risvegliate vivono tutti nello stesso mondo, perché dicono i nostri bisogni. Il livello sesto di etica è quello che consente il superamento dei conflitti, non per un compromesso o una lotta a cui uno più o meno, ma perché si è così tanto entrati nel mondo dell'altro, poi nel mio mondo, poi nel mondo dell'altro, che il bene dell'altro interessa quanto il mio. È qui in cui il mondo degli affari non ci mette più piede. Capite bene? E questo corrisponde, per esempio, a per chi è interessato al buddismo e alla grandiosa visione anche del Buddha, quando parliamo dell'ottuplice sentiero, il settimo livello dice retti mezzi di sostentamento. Cosa vuol dire? Che io devo capire che il mio lavoro produce bene intorno a me e non male, ma non solo a me e alla mia famiglia, ma intorno. E quindi, grazie alla riflessione sempre più approfondita, ho la comprensione anche del male che si produce in lontananza. Quindi, come vedete, io ho citato i sei livelli di Kohlberg per dire di una ricerca fatta con i mezzi tipici della scienza occidentale, ma in realtà queste cose sono ben note nelle antiche tradizioni. Magari i livelli saranno 7, i livelli saranno 3, i livelli saranno 5 o i 2, ma alla fine la faccenda è sempre quella. Quindi ci troviamo di fronte a un essere umano che è interessato solo a se stesso, o una ristrettissima cerchia di persone, e quindi cos'è? È sempre pronto a entrare in lotta con chi viola, ritiene, con chi viene visto come un pericolo per i propri bisogni, i quali però vengono visti in modo totalmente centrato. Ma come sarebbe diverso se invece noi ci chiedessimo sempre: ma ciò che sto facendo adesso è veramente per il bene mio, tuo, tuo, tuo, tuo? Come lo sto facendo? Margherita Porete, in un bellissimo libro che si chiama Lo specchio delle anime semplici, dice che l'anima ha due occhi. L'occhio dell'intelletto, e l'occhio del cuore. Allora, ci sono diverse vie per andare verso l'anima, cioè per andare alla scintilla divina che alberga dentro di noi. E cos'è il divino? Beh, ce lo siamo detti prima, il bene e la giustizia, quello è il divino, su quale possiamo concordare. E le vie sono questa che passa soprattutto attraverso il cuore e quest'altra che passa attraverso l'intelletto, ma se fosse solo intelletto, solo cuore, non sarebbe completo. Quindi sono due funzioni, come fossero emisfero destro, sinistro, mettetela come vi pare, che sono essenziali. Cosa dice l'intelletto? Cos'è l'intelletto? Ecco. E quindi l'intelligenza intuitiva, quell'intelligenza che mi consente di cogliere sotto la superficie, di cogliere qual è il bene, qual è l'essenza delle persone, qual è l'essenza delle relazioni. Al di là della superficie che è molteplice, andando verso l'unità, ebbene, questo intelletto è l'apice della razionalità umana. Cosa significa? Che è l'apice dell'uso della ragione, che è l'apice dell'utilizzo dell'intelligenza umana. Quanti di noi, magari ancora oggi, hanno dentro loro stessi una parte che dice: beh, i mistici sono carini, però insomma, voglio dire, c'hanno la testa nelle nuvole, non riuscirebbero a risolvere un solo problema pratico. In realtà, intesa così, l'apice della razionalità umana vuol dire che lì c'è un'intelligenza che certo non si occuperebbe del problema della lavatrice, perché quello è un problema specialistico, ma quelli che sono i problemi umani fondamentali che la scienza non tocca, cioè il problema delle relazioni armoniche tra le persone. Pensate a questo. Relazioni armoniche. Cosa vuol dire? Un dapson vibra, l'altro vibra. C'è risonanza tra le persone, c'è sintonizzazione, c'è musicalità. Bene, l'apice della razionalità umana è ciò che consente di risolvere i problemi umani fondamentali, che sono le relazioni disarmoniche. Allora, quando c'è arroganza, quando c'è prepotenza, ci sarà anche intelligenza, ma non è questa. Non raggiunge l'apice di intelligenza, è sempre un'intelligenza locale. La vera intelligenza si manifesta, che è quella che consente poi che cosa? Il bene e la giustizia, e alla fine perché è questo che le persone vogliono, la felicità, essere più contenti, essere più soddisfatti, no? Questo lo vogliono tutti. Allora, per risolvere questo problema di passare da situazioni o di grande sofferenza, bisogna stare così bene, che è quello che vogliono tutti. Questo tipo di intelligenza, quello degli intellettuali, sui quali poi spesso si fondano le università e gli specialismi, non è l'intelligenza che ci serve. Ci vuole un altro tipo di intelligenza che insieme all'intelletto tenga l'apertura del centro del cuore, passo a passo. Allora su questo devo dirvi che la scienza contemporanea è piuttosto carente. La ragione di questo libro è presto detta, è un libro che è nato perché ho voluto scrivere una volta un libro senza la minima fatica, scrivere quello che mi veniva, mente pazzo. Perché ho fatto una serie di, per esempio, ho scritto numero uno, una frase che mi veniva, poi numero due, poi lasciavo lì, ritornavo, numero tre, in modo da non avere problemi formali, sapete, fare un pensiero sistematico. E in effetti però è nato un libro che fa un po' così, un po' parla di psicologia, un po' parla di spiritualità, un po' parla di mistica, cioè, parla di musica, parla di cani, di gatti, cioè, parla di tutto. Ma nel complesso, rileggendolo, ho trovato che è piuttosto interessante, anche per me. E quindi l'ho dato da leggere a qualcun altro. E mi hanno detto, sì, è venuto bene sta cosa, sono contento perché scrivere così non mi costa nessuna fatica. Quindi per il momento quello che a me interessa è avere una... quello che vi ho detto stasera serve a noi come lavoro di formazione e nella pratica clinica per ottenere i risultati che vogliamo. Quindi per me una persona passa da una situazione animica, se chiamiamola, a una situazione egoica, nella vita fa questo. Ora, quando va nelle situazioni, nella configurazione mente, cuore, cervello tipo egoico e quindi miei bisogni io, in realtà genera semi di infelicità per se stesse e per gli altri. Quando va nella configurazione animica, crea semi di felicità. Quindi la cosa centrale per cambiare la propria vita è rendersi conto quando si è qua e cercare di fermarsi. Cambiare stato di coscienza, entrare in uno stato più animico, in cui l'etica è di livello più alto, in cui anziché semi di infelicità produciamo semi di felicità. Per esempio nel lavoro con le persone facciamo un lavoro del tipo genitori, è importante che cosa abbiamo alle spalle, un padre, una madre, benissimo, quali erano le qualità dell'essere di tua madre? Per esempio, mia madre mostrava una grande cura per noi, mia madre era una persona che aveva, era molto semplice, molto umile, e fa un elenco di cose. E poi dice, adesso dimmi quali erano le qualità dell'essere di tuo padre. Mio padre era una persona che aveva una forza morale molto grande, e mio padre era una persona che era veramente impegnato nelle cose importanti della vita, mi ha dato un esempio e così via. Poi, senti, adesso dimmi qualcosa degli inquinanti di tua madre, cioè quelle qualità che non sono qualità, sono quelle aspetti egoici. La persona mi dice, mia madre è una persona fondamentalmente depressa, malinconica, è una persona che si lamentava, è una persona che di tanto in tanto accusava gli altri dei suoi problemi. Quindi qualcosa della configurazione egoica di tuo padre. Mio padre era molto rigido, su certe cose era dogmatico, non si poteva discutere con lui e così via. Le persone che vanno normalmente a fare terapia hanno problemi con i loro genitori, anche se sono morti. E di solito hanno una parte che ritiene che i loro problemi dipendano dai loro genitori. Allora una cosa molto interessante è, dici, senti una cosa, è proprio per curiosità, ma tu questa qualità di tua madre, no? Di essere una persona che ha cura, ce l'hai anche tu? E dice, sì, me la riconosco. Anche questa, sì. E quella di tuo padre, sì. Senti, e se andiamo a vedere gli aspetti egoici, vediamo un po', quali di questi c'hai anche tu? Bene, quasi tutte le persone hanno dentro di loro, hanno fotocopiato gli aspetti egoici del padre e della madre e ne hanno fatto una sintesi. E a questi punti, allora dico, ma allora tutto il rancore che avevi per tua madre e tuo padre, visto che sei uguale a te? E la persona, Accidenti, è così. Sì. E tu quando fai queste cose te ne rendi conto? No. Lo fai apposta? No. Lo fai volontariamente? No. E quindi quando fai questo sei meccanico, ti funzioni così. Sì, se mi ci va. Invece pensi che tuo padre lo facesse apposta? No. E non pensi che anche tuo padre magari l'ha preso da qualche... Sì. A questi punti si comincia a generare questa distinzione. La parte animica è la parte in cui c'è la nostra coscienza e volontà. Le parti egoiche sono parti che agiscono automaticamente, siamo meccanici. Se siamo meccanici non siamo manco colpevoli. Perché giudicare una persona? Quindi finisce il giudizio. E se finisce il giudizio, che cosa succede? È questo peccato che non vi ho parlato di questo, che era più interessante. Vabbè, un'altra volta. Ci sarà nel libro. Sì, dovrebbe esserci qualcosa di questo, sì. E ci sarà. E quando finisce il giudizio, il nostro io governo si ricollega con l'anima. Perché il compito dell'io governo, qual è? È di governare, ma non per i fatti suoi, ma prendendo ispirazione dall'anima. Così come il governo di un paese non deve governare per gli interessi dei governanti o delle lobby, ma deve governare per mettere in atto la Costituzione, cioè i principi costituzionali. Capite quindi che c'è un collegamento tra l'anima di una persona e la Costituzione di un paese. Questo modo di lavorare che stiamo avendo ci dà una soddisfazione grande, perché ogni giorno vediamo dei collegamenti nuovi e per cui ve ne parlo un po' con entusiasmo. Ecco, almeno spero di avervi passato questa cosa. Di persone che fanno molti studi di spiritualità e poi il comportamento rimane egocentrato, ce n'è purtroppo tante. Ed è questa una delle ragioni per cui per alcune persone solo il termine spiritualità è sospetto, il termine anima è sospetto. Perché, ecco, quindi siamo in una fase in cui è molto importante che noi diventiamo più chiari possibile e rendiamo questo messaggio possibilmente a tutti, perché non c'è nessuno che deve essere escluso da queste comprensioni, che sono l'essenza dell'essere umano. Va bene, grazie a tutti. Grazie.